Amore al computer si mette a casa, i bambini giocano alla guerra TV, tutti questi strumenti al digitale che ti fa sentire realizzato, quando guardi chi ti manda fa culo, telefono, registrare l'intimità degli sconosciuti, tutto questo non ha senso. Tutto questo non ha senso. Tutto questo non ha senso. Siamo in una disposizione, una sfrenata ossessione di possedere oggetti pubblicizzati da un cross eccezionale. Soluzioni di veloci, di divertimento assicurato, di turbe sessuali che non fanno più distinzione. Thank you.